Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore, di Alessio Maurizi e con Carlo Gabardini. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. You see the go-getter, she's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold type. I got faith in your baby. I got faith. Niente funerale per il boss dei boss, il Corriere della Sera. Lo Stato e la mafia dopo Riina, la Repubblica, con tanto di foto struggente, quella con Falcone e Borsellino nel 92. L'addio di Riina, titola La Stampa, la mafia cerca il nuovo padrino e neanche qua c'è la foto di Totò Riina, il lutto nella Corleone deserta, invece la foto dedicata a Corleone, città natale di Totò Riina. Buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno e buon sabato da Carlo Gabardini. Giornali ovviamente invasi dai titoli della notizia che in realtà è dell'altra notte, quindi arriviamo con i giornali con quasi 24 ore di ritardo, ma tant'è. Il giornale ci va giù così. Bene, un mafioso di meno, la morte di Riina. Questo è il titolo principale con foto. Che, essendo contro un mafioso, un titolo che ci sta, insomma. Sì, oddio, poi sulle morti. Invece il Fatto Quotidiano ovviamente apre con il dopo Riina, una cupola 2.0, nuovi affari e rischi di guerra, però il titolone grosso è la polizia fa il picchetto d'onore in questura per Barbara Dù. Ma perché? Perché c'è stato questo picchetto d'onore? Non si sa. Non si sa, no, nel senso non si sa, è che lei ha postato il video in cui si vede questo picchetto d'onore, è scattata la polemica perché Barbara D'Urso non è una carica dello Stato e lei ha rimosso il video, ma ormai la frittata era fatta. E invece a proposito di Riina, normalmente quello che stavi dicendo tu, Carlo, che di fronte alla morte si fa tutti un passo indietro, no? Però questo è morto un personaggio, un assassino dannato per 26 ergastoli e quindi le reazioni sono molto diversificate. Ti leggo quello che scrive Alessandro Saluti sul Giornale, che dice: quando un uomo muore si è soliti dire, chiunque sia, pace all'anima sua. Io invece in questo caso mi auguro che l'anima di Totò Riina non abbia mai pace come quella dei dannati che Dante colloca nel settimo cerchio della Divina Commedia. E quindi c'è anche una citazione dantesca. Vabbè. No, non condivido, se vogliamo, nel senso che capisco benissimo, non credo che qualunque mafioso che muoia uno possa gioire, non penso che bisogna gioire per la morte di nessuno. La vera cosa è che Riina è più che un mafioso, è un simbolo, è stato tutta la questione della trattativa, la mafia, le bombe del 93, quindi è un progetto che si dice basta da un certo punto di vista. Poi bisogna anche capire cosa succede adesso, perché qualcuno dice la mafia è morta e in realtà adesso bisogna occuparsi dell'andrangheta, e qualcuno dice adesso che non c'è Riina ci saranno le nuove elezioni, vediamo chi sarà il nuovo boss. Allora, da chi è che dice questo? Vediamo sui titoli, perché per esempio c'è l'intervista a Minniti, il ministro dell'interno, sulla Repubblica, che dice a proposito intanto della effettiva capacità di condizionare ancora la mafia di Totò Riina, che avesse ancora una capacità di intervento esterno diretto e carismatico è testimoniato dalle attività investigative di questi anni. Un capo mafia non cessa mai di essere un capo mafia, per questo esiste il 41 bis. E poi Minniti propone, questa potrebbe essere una buona notizia, patto prima delle elezioni, dite no ai voti delle mafie. Sì, che è proposta... bello. La proposta in sé simbolica, è molto buona, sì. Però mi sembra simbolica, perché vorrei capire come si fa a controllarla questa cosa. Quali sono poi i voti? Che dice esattamente Minniti è questo: la politica è il vero cuore del problema. Lancio un appello, è venuta l'ora di firmare una sorta di patto di civiltà a tutte le forze politiche che si presentano alle varie competizioni elettorali, si impegnino a non ricercare e anzi a rifiutare il voto delle mafie. Sarebbe bello che questo avvenisse con un atto pubblico, solenne, fondativo di un nuovo rapporto tra la politica e il paese. Avevo visto anche una bella intervista al presidente Grasso, che però in questo momento non ritrovo più e quindi non ti so dire su che giornale è, però era è interessante in quanto Grasso sulla stampa. Sulla stampa, esattamente, in quanto Grasso si sa che in teoria era stato indicato da Riina come omicidio da organizzare dopo la morte di Borsellino, quindi lo stesso Grasso dice: io sono stato salvato dall'arresto di Riina. Su chi sia Totò Riina, su chi sia Totò Riina, è giusto dare la parola a una delle vittime di Totò Riina. In particolare la storia è quella di Santino Di Matteo, riportata con un'intervista sul Corriere della Sera. Il pentito di mafia che aveva confessato la strage di Capaci, nella quale morì Giovanni Falcone, dopo le sue prime dichiarazioni ai magistrati gli fu rapito il figlio, tredicenne, poi ucciso dopo due anni di segregazione, sciolto nell'acido. E così dice: doveva morire 50 anni fa, ora è tardi. Era ignorante ma furbo, metteva tutti l'uno contro l'altro. Era ignorante come una capra ma molto furbo, organizzava tragedie, metteva tutti uno contro l'altro con le voci che lui stesso faceva circolare e poi si alleava con uno dei due per ammazzare l'altro, destinato a essere ammazzato con la strage successiva. Questo era Totò Riina nelle parole di Santino Di Matteo, che poi va avanti e dice: a volte nemmeno riusciva a capire quello che dicevano le altre persone, a dire quanto era ignorante, pensava che lo prendessero in giro, cosa che lui non tollerava, e decideva a quel punto di uccidere. Altro che guerra di mafia, è stato uno sterminio quello portato avanti da Totò Riina, che poi, e qua c'è la parte interessante di questa intervista, devo dire, nella quale dice Santino Di Matteo, pentito di mafia, a cui è stato ucciso il figlio dalla mafia: certo che Riina si era messo in testa di attaccare lo Stato, non ha preso ordini da altri, è lui che ha deciso che lo Stato doveva mettersi in ginocchio davanti a lui. Ma si può pensare una cosa del genere, si domanda, invece di convincerlo a fare accordi con te, ti metti a fare le stragi? Solo lui nella sua ignoranza poteva pensare di restare in piedi dopo quello che ha deciso di fare. Posso aggiungere che però come si può pensare che l'unico colpevole di tutto ciò sia Riina? Certo, e questo è quello che gli viene anche domandato in questa intervista di Giovanni Bianconi, ma ovviamente qui parliamo di un pentito di mafia, quindi certo, sono dichiarazioni che vanno anche esatto, un po' prese con le molle, prese esatto, con le molle. Il manifesto invece titola Il Padrino Ultimo Atto, così giocando su gli innumerevoli film. Giorgio Stamatopoulos è andato a fare la rassegna stampa on the road questa settimana per noi, a sentire che cosa si aspettano le persone, questa volta a Roma, la città di Roma, dai giornali Oggi in Edicola. Ciao Alessio, ciao Carlo, eccoci qua di nuovo in giro per scoprire che cosa i romani vorrebbero leggere domani sui giornali. Vedere scritto che l'Italia è stata ripescata per questi mondiali. Che ora vede spada in galera? Dipende dalla testata. L'Italia è un insieme di comuni, più notizie belle dai territori. La politica poi spesso annoia e l'attualità è sempre tragica. I giornali sono troppo selettivi, troppa politica interna, basta. La politica interna è basilare, perché è quella che giorno per giorno ci condiziona alla fine. Non mi dispiace di leggere tutti i giorni i giornali, che scrivono più o meno sempre le stesse cose, però. Ho acquisto il giornale dopo che ho visto sull'online un articolo interessante. Vanity Fair. È l'unico cartaceo. I libri, però quotidiani no. C'ho le notizie il giorno prima che ho già letto. E non ho il maggiordomo che la mattina mi porta il giornale a casa. Ma poi d'ampiccio, onestamente, ormai d'ampiccio, quindi no? Ormai il telefono ti dice tutto. Anche quello che non vorresti sapere. Invece io detesto stare appiccicata a questo telefonino in continuazione. Leggo la carta stampata sullo sport. Più che altro sport minori di cui in televisione non si fa notizia. Tipo il curling. Curling, volley, motorsport. No, perché leggo i libri e consulto internet. Perché siamo abituati, social, quindi le notizie sono flash. Leggo le notizie sulla Roma e niente. Seguo Repubblica su internet. Compro il giornale. Chi è il più informato a casa tua? Papà. Perché lui come si informa? Col giornale. Pensa che mia madre ancora compra tutti i giorni il giornale, ha 84 anni. Papà sta su internet e si mette a vedere tutti i siti di informazione, perciò sei adeguato proprio. Vedi però come funziona, chi è il più informato in famiglia? Papà, perché leggi il giornale, quindi vedi che ancora il giornale esiste. È vero, esiste. Se volete essere i numeri uno, dovete leggerlo un po' il giornale, oltre che poi fare tutti i giri sui siti che volete. A proposito dell'ascoltatore che parlava del curling, vi voglio dedicare allora... No, vabbè. Giusto. Allora, questa notizia qua, perché l'Appendino, prima pagina del Corriere, ha la tentazione di candidare Torino ai giochi invernali del 2026, già... Sarebbe una sorta di riedizione, perché Torino ospitò già nel 2006. Sì. I giochi andarono anche molto bene. Questa volta pare che non ci siano candidati, perché Innsbruck è stata bocciata da un referendum. Alle altre città candidate, Calgary, Salt Lake City, sono come Torino città che hanno già ospitato i giochi. Quindi possiamo giocarcela. L'Appendino ha detto ufficialmente ai suoi consiglieri comunali che ci sta pensando. Ma sarebbe un cambio di rotta. Un cambio totale, nel senso che non c'è evidentemente all'interno del Movimento 5 Stelle quindi una posizione unitaria su se portare le Olimpiadi faccia bene o faccia male. Non ho capito, insomma. E a proposito di cambi, tra ognuno se la gestisce in maniera diversa, su diversi giornali parlano di Di Maio che dice: io non firmerò, al contrario della Raggi, un contratto con la Casaleggio se divento premier. Che è interessante, essendo un politico, dico: ma ci mancherebbe altro che firmerai un contratto con una società privata, nel senso che sei eletto da noi, quindi non si capisce bene. Però effettivamente non capisco perché a lui lo permetteranno e invece evidentemente alla Raggi non l'hanno permesso. Allora, cari ascoltatori, dopo il giornale radio delle 8 parleremo di bici, perché il mondo della bici è in fermento. Infatti, mentre alla Camera viene approvata la legge sulla mobilità ciclistica, da cui i ciclisti si aspettano molto, a Bologna scoppia un caso tolleranza zero proprio nei confronti dei ciclisti indisciplinati. 800 24 00 24, ciclisti indisciplinati, vi chiediamo se è una verità o se è una leggenda. Cosa accade nelle vostre città? La vostra esperienza, magari di pedoni che si scontrano sui marciapiedi con le biciclette, perché questo può capitare. 800 24 00 24. Poi il gioco, giocare con voi. Il gioco. Insomma, era golosa l'occasione di Ventura, che dice: credevo di farcela ieri in una lunga intervista. Sì. Lanza ha detto così, evidentemente, ma capita nella vita l'illusione di risveglio dopo l'illusione. No? Un po' lo credevamo anche noi, nel senso che c'erano molti scettici, però c'era anche chi giustamente diceva: vabbè, vediamo questo Ventura. E allora vi chiediamo, quella volta che anche voi eravate convintissimi di farcela, eravate a un passo dal farcela, colloqui di lavoro, esami all'università, storie d'amore, insomma, fallimenti dopo le illusioni. O anche promesse mancate, perché spesso uno magari fa una promessa che può anche essere: rimarremo insieme per tutta la vita, ne sono sicuro, e poi invece le cose vanno diversamente. Vi aspettiamo all'800 24 00 24, come sempre ci sono i biglietti del Mostra Egitto allo splendido Mudec di Milano che vi aspettano. Si può fare. Cronache da un paese migliore. La cricca del Virgilio, tutti i figli della Roma bene, video arde, bombe, carta, parla la preside in prima pagina del Corriere della Sera, storia incredibile del Virgilio di Roma, dove accade di tutto, e la preside parla addirittura di mafia, incredibile, eh? Invece su Il Giorno un'altra notizia incredibile in primissima pagina, con tanto di grossa fotografia: troppi videogame tolto alla mamma. Sentenza shock, un giudice di Cremona impone la comunità a un ragazzo di 14 anni malato di PlayStation. La madre fa causa, un coetaneo in cura dice: così combatto la mia dipendenza. Poi dopo Il Giorno si occupa di questa notizia alle pagine sia 2 sia 3 e dice: malato di PlayStation a 14 anni, il giudice lo toglie alla famiglia e lui alla corte dice: lasciatemi con mamma, lasciatemi giocare. Lasciatemi con mamma, che non è un videogioco ma è la sua mamma. Allora, a proposito di nuove tecnologie, sembra che sia per sbarcare una in Italia che dovrebbe essere, e questa sarebbe una buona notizia, efficace contro il cosiddetto secondary ticketing, cioè il bagarinaggio online. Certo, ne abbiamo parlato. Biglietto, per me è successo anche per la nazionale di calcio, ho comprato un biglietto e non c'era il mio nome e guarda caso costava di più di quello che costava l'emissione. Lo comprano, Milano con gli Spider, i robot sui motori di ricerca, e poi te lo rivendono. Allora, sbarca Ticketmaster dall'America, un'app che dovrebbe contrastare il bagarinaggio virtuale, scrive sulla prima pagina Repubblica. Poi però nell'articolo all'interno non è chiarissimo come funzioni questa app, ma insomma M-Ticket è il sito e l'app appena lanciata, il limite di acquisto per scheda SIM, tracciabilità degli spostamenti dei tagliandi, insomma dovrebbe essere un argine contro questa pratica che è proprio disonesta. Molto disonesta. Che l'antitrust ha già, e poi ne parlavamo prima, dicevamo, almeno una volta i bagarini ci davano l'impressione di fare moltissima fatica, di stare al freddo, di stare davanti allo stadio per 8 ore o per giorni, e in qualche modo uno dice vabbè, ti do un po' di soldi a te perché tu ti sei fatto la fila per me, ma se lo fai con un bot da casa stando seduto al computer e poi me lo rivendi sempre via computer è un'altra cosa. Invece io volevo parlare di un'altra notizia, non so se sia una buona notizia, però è una cosa che secondo me ci incuriosisce tutti. Su Repubblica Milano, parlando dei mezzi pubblici, auto in divieto e guida spericolata fermano i mezzi per 52 giorni all'anno. Quante volte vediamo una macchina parcheggiata che interrompe il servizio pubblico e quindi magari c'è una colonna di tram, 7, 8, 10 tram tutti fermi. Ecco, non sapevo questa cosa. In realtà tutte le volte che una macchina interrompe il servizio pubblico, ATM fa il calcolo delle spese, dei costi, e recapita la multa, ovviamente se viene beccato, a colui che ha fermato il servizio pubblico. E esistono anche multe che arrivano fino a 2.700 euro. Ecco, vedi, a proposito di mezzi invece, c'ho quest'altra notizia qua che potrebbe essere una buona notizia. La trattativa per vendere l'Italia alla Lufthansa alla fine, perché cioè, se arrivassero loro forse ce la potremmo anche fare, ma il ministro Del Rio però ha detto che il piano portato dalla Lufthansa non va. Non si sa perché, ovviamente ci saranno dei problemi, staremo a vedere. Questa potrebbe diventare una buona notizia. Lo è Book City, secondo quello che riusciamo a capire a Milano, la fiera insomma del cos'è Book City? La fiera del libro? No, non è la fiera del libro. Non è la fiera del libro, che già ce n'è due di fiere del libro, uno è il salone a Torino, l'altro è Tempo di Libri a Milano. La rassegna letteraria. Esatto. Però che notizia, ieri c'era, sì, Marco Gé, la cosiddetta apertura, Marco Gé, sociologo, quello dei non luoghi, l'apertura è stata al Teatro Dal Verme a Milano, ieri c'era una fila incredibile. La notizia è che sono aperte due nuove librerie nelle periferie di Milano, e questo viene segnalato come una buona notizia che potrebbe invertire il trend che purtroppo è negativo per tante. Vero. Per tante librerie. Colgo al balzo il fatto che parli di Book City, perché oggi io a Book City alle 6 al Museo del Tennis del Circolo Ambrosiano in via Feltre presenterò questo libro che è Crazy for Football, che è una storia bellissima della quale in parte avevamo parlato anche noi, che è la nazionale di calcio italiana per malati psichiatrici. È stato fatto un documentario nel 2004, poi un altro documentario nel 2016 che ha anche vinto il Davide Donatello, e presenterò questo libro con gli autori che sono anche i registi del documentario, Wolfgang Di Biasi e Trento, e ci sarà anche Cabrini e Santorullo, lo psichiatra. Allora, adesso sentiamo Marco Boschini, che dove ci porta? Qual è l'idea ribelle? Qual è il comune ribelle di questa settimana? Sentiamo. Ciao Carlo, il comune ribelle della settimana è Modugno, in provincia di Bari. Qui l'amministrazione ha avviato qualche anno fa il recupero del complesso monumentale di Balsignano. Nel sito, oltre ai resti del villaggio rurale che viene fatto risalire al X secolo, sono presenti oltre 300 ulivi pluridecennali e secolari. Per valorizzarli e avviare un'operazione di cura del territorio si è pensato di attivare la produzione di olio extravergine di oliva prodotto direttamente dal comune. L'olio realizzato è un prodotto purissimo, nessuna irrorazione, e raccolta delle olive è fatta senza compromettere la sopravvivenza delle piante, anche per preservare il terreno sottostante e i depositi archeologici in esso esistenti. Un risultato di eccellenza, utile a veicolare il nome della città di Modugno. I proventi hanno destinazione vincolata all'incremento e alla valorizzazione del patrimonio culturale, in particolare del complesso monumentale stesso. Come si usa dire in questo periodo, ecco un esempio più che virtuoso di economia circolare. E questo era il comune ribelle della settimana. Come sempre ringraziamo i comuni virtuosi e Marco Boschini per quello che fanno e anche per le notizie che ci portano. 800 24 00 24, vi aspettiamo dopo il GR. Ciclisti indisciplinati, verità o leggenda metropolitana? Chiamateci, perché questo sarà il tema. Esatto, e chiamateci anche per il gioco, che siamo curiosi dei vostri fallimenti, delle vostre promesse fatte e poi non mantenute, di quando avete detto ce la faccio di sicuro e poi invece non ce l'avete fatta. Come è accaduto a Giampiero Ventura, GR. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Oh baby, baby, baby, been trying to reach you. Oh honey, got more love than you was hoping. So come on over. Oh let your body teach you. Cause you won't ever need to go searching. Oh can you feel the way we got to make it? This every time I ain't got another morning, say no, no, no. Allora, senti qua, tra poco parliamo di biciclette perché ci sono notizie anche da noi in Italia, però sentite qua ascoltatori, a Parigi entro il 2020 Parigi sarà ciclabile al 100%, ora non so esattamente cosa voglia dire, hanno scritto così i giornali, in realtà succede che sono state presentate 500 azioni da compiere entro il 2050, il nuovo piano clima, sapete che Parigi ha ospitato gli accordi sul clima, quindi è in prima linea da questo punto di vista a ridurre il consumo, dimezzare il consumo energetico della capitale. Bene, entro il 2020 zone 30, sensi unici eccetto che per le biciclette, piste ciclabili ovunque, nuovi stanziamenti, e questo è il plan vélo che tra l'altro è già iniziato a Parigi da un po' di tempo ed ha portato, pensa, ad un aumento del 20% del passaggio dei ciclisti nei punti chiavi della città nell'ultimo anno, che insomma, un grande aumento. E ti rispondo con una notizia nostrana invece: prese per le auto elettriche obbligatorie nelle nuove case entro il 2017. Si voleva già farlo in precedenza, ma invece il limite è stato messo a fine 2017, dove la legge dice che ogni nuova costruzione, ma anche se ristrutturi casa per più del 50% della superficie, sei obbligato a mettere a disposizione delle prese per le auto elettriche. Io non lo sapevo, pensa che cosa. E appunto è importante perché tutte le volte che si dice auto elettrica, io mi chiedo sempre: ma come fanno a ricaricarla? Tirano giù un cavo da casa oppure esistono dei punti? E i punti mi sembrano pochi e in autostrada non ne vedo, quindi mi chiedo sempre. Quindi ecco come si fa quando si costruiscono le nuove case o si ristrutturano le vecchie. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi aspettiamo. Ciclisti indisciplinati, ne parliamo tra poco a proposito del caso Bologna, dove è scoppiata la tolleranza zero. È una verità o una leggenda metropolitana secondo voi? Chiamateci all'800 24 00 24 e poi vogliamo giocare con voi anche dopo le parole di Giampiero Ventura, che ha detto: ero convinto di farcela. Ero convinto di farcela. Capita spesso. La convinzione non è sufficiente, volevi non dire. Basta risvegliarsi l'illusione, dopo l'illusione, con un fallimento tra le mani, può capitare. Storie d'amore, colloqui di lavoro, scuola, università, chiamateci, siamo qua. Con noi Francesco Baroncini, direttore generale di FIAB. Buongiorno, benvenuto Francesco. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Buongiorno. Ben ritrovato Francesco Baroncini, un ciclista incallito e direttore della FIAB, che è la Federazione Italiana Amici della Bicicletta. Baroncini, per così commentare, salutare questa notizia, che è in realtà l'approvazione solo alla Camera della legge sulla mobilità ciclistica. Che cosa prevede? Insomma, ci sono stati commenti molto positivi da parte del mondo dei ciclisti, che aspettano di vedere, come dire, trasformarsi le città in luoghi più adatti ad andare in bicicletta, luoghi anche più sicuri. E questa è la volta buona? Ma speriamo di sì. Ovviamente la legge manca un ramo del Parlamento. Confidiamo che il passaggio al Senato sia veloce, perché la legge è stata approvata all'unanimità alla Camera. Tutti i gruppi, da Fratelli d'Italia, MDP, tutto l'arco costituzionale, si diceva una volta, ha votato in favore di questa legge. A ulteriori prova che la mobilità ciclistica non ha un colore politico, è semplicemente una cosa che serve ai cittadini. Nessuno ha il coraggio di mettersi contro i ciclisti, no? Detta così sembra... Detta così non è neanche vero, tra l'altro. No, però, anche perché ci è voluto un sacco di tempo, se ho capito bene, dentro in questa legge ci sono delle cose che voi chiedete da 10 anni, quindi capiamo che cosa cambia con questa legge, come cambieranno le nostre città. Precisamente, l'idea, velocemente un po' di storia, l'idea è nata 10 anni fa, al termine della prima conferenza nazionale della bicicletta, l'idea di creare una legge quadro. Nel tempo si è evoluta l'idea, siamo riusciti a presentare più volte un testo e adesso, grazie alla tenacia dell'onore di Paolo Gandolfi, siamo arrivati all'approvazione. Sì. Mi faccio ringraziare anche Antonio De Caro, che non è più parlamentare ma è sindaco di Bari, ma è il primo firmatario di questa legge. Fatti i dovuti. Ed è il presidente dell'ANCI, giusto? Esattamente, è lui. L'abbiamo Fatti sentito poco fa e per questo, quindi siamo contenti di ringraziarlo. Sì. A chi e ovviamente a tutti quelli che in FIAB hanno lavorato per approvare questa legge. Il dato importante qual è? Si dice, glielo leggo, che lo sviluppo della mobilità ciclistica è una componente fondamentale delle politiche della mobilità. Ovvero, le biciclette non è più un residuo. Fino ad ora si facevano i piani della mobilità e caspita, abbiamo scritto il piano, ci siamo scordati le biciclette, infiliamoci un articoletto. Assolutamente. Dobbiamo pensare, sì, a 5 km di pista ciclabile, qual è la periferia più lontana da tutto? Certo, no, è molto buona questa cosa. La cosa che ci chiediamo è quanto poi verrà rispettata e quanto sia un valore simbolico il fatto di dire dobbiamo ricordarci anche delle biciclette. Quando invece allora, ci saranno delle ricadute concrete, Baroncini, perché lo voglio dire anche agli ascoltatori, tra l'altro all'800 24 00 24 questa mattina gliene farò sentire anche qualcuno, chiediamo anche di intervenire su questo, perché dobbiamo ricordarci perché tutto questo attenzione verso le biciclette. Lo dico soprattutto agli amici automobilisti all'ascolto, perché non dobbiamo mai dimenticarci, sarà banale ricordarlo, ma le biciclette non occupano spazio, non fanno rumore, non inquinano, non uccidono, a differenza delle automobili, quindi insomma vanno assolutamente incentivate, perché laddove ci sono più biciclette ci sono meno di tutti questi problemi. Qualche automobilista ti potrebbe dire, è vero che loro non uccidono direttamente, perché è abbastanza difficile essere ucciso da una bicicletta, però con può essere che loro mettano in pericolo altre persone, perché facendo una manovra sbagliata o andando in contromano perché un'automobile vuole cercare di evitarti, può essere che succedano anche dei danni. Per correttezza, giustamente qualcuno lo doveva fare, quello a favore degli automobilisti. Mi sa che siamo già arrivati al caso Bologna, Baroncini, perché ho paura di sì. Sì. Poi però voglio tornare un attimo sulla legge per rispondere alla domanda se questa dichiarazione di intenti, sì, resiste. Ottimo, giusto. Allora diciamolo subito, rispondiamo subito allora, a questo rispondiamo aspetto. Subito, rispondiamo che la legge stessa prevede che le regioni, i comuni e le città metropolitane, sì, debbano obbligatoriamente prevedere dei piani della mobilità ciclistica, sia a livello regionale sia soprattutto un piano della mobilità ciclistica è una parte del piano urbano della mobilità, per cui queste cose devono essere fatte. Poi come verranno fatte lo staremo a vedere, le amministrazioni locali e regionali sanno di poter contare sull'aiuto e i consigli della FIAB, sanno di poter evitare determinati errori che sono stati fatti nel passato. Cosa ci aspettiamo di vedere qualora tutto questo diventerà realtà, concretezza? Più piste ciclabili, rastrelliere, perché anche quel tema, per esempio, banale della rastrelliera in giro per strada, le faccio un esempio, qua dove lavoriamo noi, a Radio 24 ci sono tanti altri uffici, non esiste una rastrelliera, non si possono mettere le biciclette attaccate, incatenate ai cancelli perché la proprietà lo vieta, e quindi uno non sa come fare. Questa è una sciocchezza, un esempio, ma insomma, visto quante biciclette si rubano in giro, e quindi cosa vi aspettate di vedere in concreto? Esattamente quello che lei ha detto, che lo sviluppo della mobilità della mobilità ciclistica, insomma, sviluppare l'uso della bicicletta in città, per parlare semplice, è un sistema un po' complesso, e spesso dice: ah, ho fatto la pista ciclabile e non ci va nessuno. Può essere che in fondo alla ciclabile non ci sia la rastrelliera dove lasciare le biciclette, anche le bici stanno parcheggiate. Il vantaggio della bicicletta è che dove sta una sola macchina, di bici ce ne stanno 10, volendo quelle moderne a flusso libero ce ne sta anche una dozzina. E dove sta un SUV ce ne stanno anche 17, direi. Ora, se le pigiamo parecchio, sì. Per quello c'era, anni fa girava un simpatico video nel quale i ciclisti facevano vedere quanti ce ne stavano, e siamo riusciti almeno a Firenze a pigiare 31 biciclette in uno spazio auto. Mi sembra un bel progetto. Però è un gioco da incastro quello lì, non è una certo, sorta. Certo. Bisogna essere in 31 tutti molto amici e appassionati di Tetris. Esatto. Allora, però, al netto di quello, normalmente in uno spazio normale ci stanno dalle 10 alle 12 bici in un posto auto, e significa decuplicare lo spazio per le persone. Certo. A proposito di ciclabili, no, Baroncini, lei è soddisfatto di come vengono realizzate in molte città? Io le faccio l'esempio di Milano, no? Encomio per il comune che da diversi anni tutte le giunte che si sono succedute hanno cercato di incentivare le biciclette, bisogna dirlo, bisogna riconoscerlo, non del vero, però vedo tante striscioline, piste ciclabili strette con muretti. Il muretto è nemico del ciclista, per come me lo ricordo io e per come sono stato e sono ciclista io, perché intanto hai paura di inciamparci e di cadere, e poi se per caso sei su strada e vuoi rientrare sulla ciclabile, se c'è il muretto non puoi rientrare. Spesso accade, insomma, che le bici non vanno su queste piccole ciclabili troppo circondate da corde, li vanno per strada, ingolfano il traffico ancora di più e succede un patatrac. Mi sembra a volte che non si sia ancora afferrato un po' il concetto, no, di come cambiare veramente le nostre città rendendole amiche delle biciclette e dei pedoni. E che ne pensa? Precisamente questo. Ancora è passata in tanti punti l'idea che bisogna incentivare la mobilità delle bici. Il come farlo, il come costruire le infrastrutture, ancora c'è un po' di lavoro da fare. Quello che dicevo prima, che è residuale, intendevo proprio questo. C'è un pochino di spazio, mettiamoci una pista ciclabile, laddove invece bisogna redistribuire lo spazio totale, ripensare le strade in generale, dando dignità anche alle bici. Venendo al caso Bologna, giusto, mi ha dato ora un collegamento buono, sul fatto che i ciclisti vanno sul marciapiede, sì. Spesso sono state le amministrazioni, ecco, in anni precedenti ad insegnare i ciclisti ad andare sul marciapiede, ovvero creando le piste ciclabili sui marciapiedi, creando i marciapiedi promiscui pedoni più bici. Per cui il messaggio che è passato in anni precedenti era: cari ciclisti, levatevi di mezzo dalla strada e montate sul marciapiede, che non vi succederà niente. Esatto. È vero. E quindi è difficile arrivare dopo a dire: ah, ma i ciclisti sono sul marciapiede, quando per anni mi ha insegnato che quello era il mio posto. Dobbiamo poi tornare alle basi, insomma, ciclisti su strada, su strade sicure, e quindi pedoni sicuri sui loro marciapiedi. E qui arriviamo al caso Bologna, e io rilancio con gli ascoltatori all'800 24 00 24 di intervenire per proprio raccontarci nelle vostre città se accade, per esempio, quello che accade a Bologna, dove c'è stato un inasprimento delle sanzioni, delle multe nei confronti dei ciclisti che vanno proprio sotto i portici, che vanno sui portici, e però i ciclisti sono arrabbiati molto, perché dicono, insomma, appunto, come diceva lei, su strada abbiamo difficoltà ad andare, quando andiamo sui portici fate la multa, e però i pedoni giustamente hanno le loro ragioni, perché non puoi circolare sul marciapiede e vedere sfrecciare una bicicletta a tutta velocità. Come se ne esce? Soprattutto, se posso aggiungere, si sono lamentati molto perché pare che siano più le multe ciclisti di quelle agli automobilisti, perché io capisco che anche ai ciclisti bisogna far rispettare il codice della strada, però è un po' che tu dici: adesso che abbiamo messo a posto tutte le automobili e tutte le automobili circolano bene, appena uno sgarra si prende la multa, ci occupiamo anche dei ciclisti. Invece occuparsi più dei ciclisti che degli automobilisti mi sembra un po' come per dire: forse perché è più facile prenderli per un vigile, perché vanno più piano. Magari viene anche facile avere l'articolo di giornale o il tweet, il post su Facebook: ah, che bello, finalmente anche i ciclisti indisciplinati. Certo. Allora, Premesso che rifiuto la categoria del ciclista indisciplinato, perché rifiuto la categoria in generale, indisciplinate sono le persone, certo, indipendentemente dal fatto che siano ciclisti, automobilisti o guidatori di autobus, che forse quest'ultima categoria è proprio quella che rispetta di più il codice. Detto questo, come dicevo, è una questione di insegnamento che è stato dato. Mi hai costruito per anni piste sui marciapiedi e sotto i portici, io penso che lì debba andare. Dopodiché, prima di fare la multa, come amministrazione mi domanderei, ma come mai il ciclista usa quello? Forse la strada è davvero pericolosa e allora forse bisogna mettere a posto quella strada, cioè la carreggiata, per intendersi. Mm-hmm. E altra cosa, è pericoloso sfrecciare, si parla dei ciclisti che sfrecciano, se ci sono tanti tendoni la vedo molto difficile sfrecciare. Ma molto difficile sfrecciare. Ma... cioè, dubito che su una tangenziale di Bologna, quando c'è traffico e la tangenziale auto è bloccata, dubito che una qualsiasi Ferrari possa sfrecciare se c'è un muro di macchine ferme. E lo stesso vale per i pedoni, se c'è un muro di pedoni difficilmente in bicicletta sfreccia. Però possiamo dire ai ciclisti quando vanno sui marciapiedi di andare il più lentamente possibile, magari portare la bici in mano anziché pedalare normalmente? Allora, bisogna farlo perché questo prevede anche il codice. Ecco. Se le condizioni del traffico non lo permettono, bisogna scendere e spingere. Benissimo, certo. Le faccio sentire Renata, che chiama proprio da Bologna, credo voglia intervenire su questo intervento. La signora Renata, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuta, prego. Io abito in centro a Bologna, con dei portici larghi 3 metri. Sì. E quando usciamo di casa, oppure le persone escono dai negozi, vengono decisamente falciate, perché... è vero che non possono zigzagare, ma qui lo fanno perché col portico molto largo riescono benissimo. Mm. La signora che del bar che ha i tavolini fuori sotto il portico è stata più volte sbalzata coi caffè. È vero anche che la strada qui, io abito in via Marconi, è una strada larghissima con 4 corsie, però il comune ha fatto delle pensiline per gli autobus in mezzo alla strada. E le biciclette hanno paura perché si stringe in quel punto e vengono effettivamente schiacciate. Vedi, grazie Renata, io la ringrazio, è chiarissimo. Vedi Baroncini, cioè la signora praticamente ha fatto domanda e risposta, perché il problema è proprio quello che diceva lei, le strade non sono sicure, quindi vanno sui marciapiedi, però questo non può essere, quindi qualcosa il comune deve fare. Beh sì, per esempio nel caso, ora non conosco esattamente il disegno di via Marconi, probabilmente invece di costruire la corsia autobus nel mezzo bastava farla su un lato e dare l'accesso anche alle biciclette, come si fa in tante città nelle corsie riservate. Una soluzione, poi torniamo a questo, la progettazione, Baroncini, è questo il punto, no? Cioè si potrebbe proprio fare un appello. Del Rio è tutto contento dell'applicazione di questa legge. Del Rio è un grande ciclista, ha avuto ruoli di governo in questi anni molto importanti, però stiamo sempre lì, cioè manca la progettazione, cioè nei dettagli proprio, no? Perché se si vuole incentivare l'uso della bicicletta, cambiare il volto delle città italiane, bisogna intervenire col bisturi, non con l'accetta, come per esempio mi sembra di capire è accaduto in questa strada qua di Bologna. Precisamente, quello che dicevamo, ed è quello il motivo per cui siamo contenti di questa legge approvata. Adesso i biciplan dovranno esserci, la progettazione anche a livello regionale, intesa come rete cicloturistica e di trasporto, deve esserci, e che significa che anche gli ingegneri e gli architetti e i progettisti in generale del comune dovranno mettersi a studiare un pochino di più la mobilità ciclistica, che è diversa adesso, fa spostare le biciclette è molto diversa da far spostare delle auto o dei camion. Sono veicoli tutti e tre, sì, ma la logica che ci sta sotto al come si spostano non è la stessa. Quindi confidiamo in questo. Ci sono persone, e le abbiamo trovate anche diverse, devo essere onesto, di progettisti che piano piano hanno avuto l'umiltà di mettersi a studiare, perché talvolta si tratta di umiltà di mettersi a studiare, e siamo poi contenti di molti lavori fatti. Certo, è umiltà, ma anche poi mettersi proprio a provare dopo che sì, sono state fatte le cifre, a vedere se funzionano. Eventualmente uno le corregge, le cambia, perché credo che una pista ciclabile fatta male è quasi peggio di una pista ciclabile non fatta. Va bene, Baroncini, grazie, direttore della FIAB. Grazie mille. Abbiamo scandagliato un po' il mondo della bici all'800 24 00 24. Vi aspettiamo dopo la pubblicità. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta può fare. Cronache da un paese migliore. Yep. I like to start out by saying, fellas, good night. Yeah. You know what it's about. If you're looking for a mister. Allora, raffica di messaggi sul caso Bologna, sulle biciclette, ce ne sono di tutti, per tutti i gusti. Allora, c'è chi dice: una delle cose peggiori è non avere le luci la sera. Ciclisti senza luci. Avevamo la anche sera. Una bella notizia su quello che non siamo riusciti a chiedere al presidente di FIAB, perché FIAB Verona ha regalato il kit delle luci a un migliaio di ciclisti che non ce l'avevano. Poi c'è un punto di vista originale, quello di Fabio, che scrive: i ciclisti sono automobilisti su due ruote, ancora più indisciplinati di chi usa l'auto, perché sono sempre automobilisti. Eh no, si sbagliano però. E invece c'è chi cerca di rispondere alla mia domanda di chi, di dove mi sembrava un eccesso di zelo che a Bologna ci fossero più multe per i ciclisti piuttosto che per gli automobilisti, e mi risponde: perché a Bologna il centro è tutto ZTL, come fanno le auto a prendere multe? Genio! Volevo rispondere a questo genio che appunto ZTL significa zona traffico limitato, non zona a traffico zero, quindi ci sono le macchine, possono prendere le multe, altro che se prendono le multe, quindi è una risposta del cacchio. Sentiamo gli ascoltatori. Davide da Varese, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Eccolo qua. Cosa volevi intervenire, Davide? Chiamavo in merito al discorso che facevate sugli insuccessi, su sì. Casa Ventura. Sì. Sì. Ecco, il mio grosso insuccesso risale al 4 luglio, quando ho sostenuto l'esame per la patente nautica. Di quest'anno? Di quest'anno, esatto. E com'è andata? E quest'anno, immaginiamo, bene, è stata un'estate caldissima. Sì, io certo. Ho una piccola barchetta di 3 o 4 metri che uso per delle uscite domenicali con la mia famiglia. Ci vuole la patente per la barca di 4 metri? No, per quella che ho io no. Ah. Però visto che mi sembrava che piacesse a tutti la barca, io mi sentivo molto preparato. Eri lanciato? Ero molto lanciato. E allora ho proposto a mia famiglia: io faccio la patente nautica, poi con una coppia di amici magari noleggiamo una barca più grande e andiamo a fare una bella vacanza. Ma sì, che bello, tutti in barca. Giusto. Con tutti la barca più grande. E invece? E guardavamo già su internet anche sì. I costi per noleggiare per una settimana in barca. E il furto di tutto era la mia patente nautica, che io ero sicuro di riuscire a conseguire. Allora il 4 luglio sono andato a Genova a sostenere l'esame, che si era costituito da 3 prove. Sì. Io ho iniziato alle 9 l'esame, alle 10 ero già in macchina che tornavo verso casa, perché alla prima prova avevo già fallito. Ah, subito, secco, così. Sì. Orecchie basse. E quindi vacanze in montagna? No, in spiaggia, sulla asciugamano. Non sono neanche più salito sulla barchetta da 4 metri. No, questo non va bene. Allora, noi speriamo che torni sulla barca almeno da 3-4 metri e che riprovi l'esame. Però siamo molto contenti che tu ci abbia raccontato questa storia, perché è difficile raccontare dei propri fallimenti, e infatti sei il primo. Speriamo che a te vada bene. Speriamo invece che Ventura non ci ripensi e stia lì dove sta. Ma che faccia la patente nautica, Ventura. Ah, sì, quello sì. Giuseppe da Ragusa, vai. Buongiorno a tutti, anche agli ascoltatori saluto. L'evento si riferisce all'88, quando fresco di università, feci un concorso alla Bocconi come operatore al centro di calcolo. Feci gli iscritti, feci gli orali, passai il colloquio, tanti complimenti, mi diedero tutti la mano e poi dopo, contento io che ce l'avevo fatta, mi ritrovai scavalcato da un'altra persona. Ahimè, non avevo mai visto all'interno dell'università, comunque saremo un migliaio, quindi difficile, e fu una grandissima proprio delusione. Quanti anni avevi? Eri giovane? Sì, 27 anni. Erano i primi, era il primo posto di lavoro che cercavi, forse. Bravo, sì. Poi però dopo hai trovato, Giuseppe, altro da fare. Sì, io insegno informatica nel Ragusano, periodo estivo vengo a Milano a lavorare. Quindi alla Bocconi gli hai fatto un bel arrivederci e grazie. Sì, no, guarda, non ho messo più piede. Meno male, vabbè. L'importante è il lieto fine anche in questo caso. Esatto. Però, come dice Carlo, è sempre anche un po' liberatorio, non raccontare dei propri insuccessi. Anch'io ne ho uno che riguarda il mio forse primo colloquio di lavoro, adesso lo sto a raccontarlo perché non c'è tempo. Dici, bella scusa per non raccontarlo. Te lo richiederò, prima o poi il tempo ci sarà. Io poi lo racconterò. Patrizia da Bologna, ce la facciamo in 30 secondi prima del traffico. Vai, Patrizia. Pronto, volevo segnare questo. Ho preso una multa di 60 euro sul marciapiede perché ho parcheggiato attaccato a un palo. Vabbè, ma il problema non è questo. Parliamo di bicicletta, stiamo bicicletta, parlando di bici a Bologna. Esatto, scusa. Sì. Esatto, il problema è un altro, velocemente. Che le biciclette vengono multate come le macchine e le moto vengono multate esattamente alla metà. Perché non c'è nel codice una precisazione sulla multa delle biciclette. Però scusa Patrizia, mi incuriosisce una cosa, al di là di questa questione che stai dicendo adesso. Ti hanno fatto la multa perché hai parcheggiato la bici sul marciapiede? Sì, ho attaccato a un palo perché ho ostruito il passaggio. Hai ostruito il passaggio? Il passaggio di carrozzine. Quanto è vero, ostruivi in effetti? 59 euro e rotti. Ma ostruivi effettivamente il passaggio? Sì, probabilmente se doveva passare un invalido con la carrozzina, non passava. Il marciapiede era molto stretto. Che era stretto in quel punto lì. Sì, cioè, sì, no, ma io non. Cioè, avevo non sta ragione. Contestando la multa, giustamente. No. Lei sta dicendo ci sono multe per gli automobilisti e multe per i motociclisti. Almeno essere parificati i motociclisti e non gli automobilisti, visto che pagano la metà. Questo me l'ha detto il vigile, certo. Mi dispiace. Va bene Patrizia, ha ragione, grazie. Facciamo un invito a tutti i ciclisti che sono costretti a parcheggiare sui marciapiedi e cercare un tratto di marciapiede che sia meno, come dire, potabile per far passare anche carrozzine varie. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Carlo, tu come stai a... capacità respiratorie. Bene, bene. È un anno che non fumo. Ho smesso di fumare da un anno. Fumo solo la sigaretta elettronica. Sei il ritratto della salute. Quando sei arrivato qua eri malaticcio, fumavi. È vero. Adesso stai molto meglio di me. Passavo dei weekend terribili, bevevo. Invece adesso vado a dormire presto. È incredibile. Mi hai migliorato, mi hai salvato la vita, Alessio. E invece io sto crollando perché non respiro. Praticamente ho un disperato bisogno di fare le cure che propone il professor Mario Canciani, responsabile del servizio di allergologia della clinica pediatrica all'ospedale di Udine. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, in realtà le voglio fare anch'io perché io ho sempre sofferto di tonsilliti tutta la vita, quindi sono curiosissimo di questa. Camminare nei boschi, esatto. L'innovativa cura per respirare meglio, ci dica tutto? Forestoterapia. Questa esperienza nasce negli anni 80 dai colleghi giapponesi, sì, i quali si erano accorti che stare in mezzo alla natura, e specialmente nei boschi, non ha solo un riflesso, diciamo, di ordine psicologico, eccetera, ma c'era qualcos'altro che si liberava dalle piante. E che cos'è che si liberava? Sono dei terpeni, che sono delle sostanze in cui la pianta usa per difendersi. Mi ripete la parola? Terpeni. Bello, questi terpeni noi li ringraziamo molto. Terpeni, come Torino. Scusi, terpeni, li ringraziamo moltissimo per i benefici che... E cosa accade liberandosi questi terpeni? Esatto. Siccome la pianta non può scappare dai nemici, allora deve difendersi con queste sostanze che hanno un effetto antinfiammatorio sul nostro corpo e quindi diminuiscono l'infiammazione nel cuore, nelle arterie, l'arteria sclerosi parte tutto dall'infiammazione, ma anche nei bronchi. Cioè, mi vuol dire che vivendo in un bosco si ha meno probabilità di ammalarsi di arteriosclerosi, per esempio? Esatto. Loro... Io mi sento già meglio, anche solo all'idea. Si sono più indirizzati verso... Voglio un chilo di terpeni! I colleghi giapponesi si sono indirizzati verso l'apparato cardiocircolatorio. Sì. Noi abbiamo creato un naso elettronico, una start-up friulana, un naso elettronico che permette di sentire gli odori, diciamo a miliardesimi più piccoli, più sensibili del nostro naso. Con questo abbiamo creato una mappa e con questo portiamo i bambini e gli adulti a fare delle camminate di 1-2 giorni seguendo dei determinati percorsi. Ma ininterrottamente 1-2 giorni o ci si ferma anche? A far merenda? Andiamo a dormire. viene tutto fatto sotto forma di gioco e di relax. Ma soprattutto i benefici poi uno se li porta a casa o quando si esce dal bosco si torna miseri come prima? Infatti ho visto che ci sono altre esperienze in Italia, però nessuno aveva fatto questo studio come noi, perché abbiamo valutato le cellule dei bronchi prima e dopo il soggiorno, la camminata. Quindi uno arriva lì, fa tutti gli esami. Fa degli esami, spirometria, ma soprattutto un dosaggio dei gas nei bronchi, un gas particolare. Ma e quindi questi benefici avete misurato che permangono, rimangono attivi anche dopo? Naturalmente con uno o due giorni non è che uno possa pretendere, ma il 30% dei partecipanti, uno su tre, ha avuto dei risultati che permanevano per 2-3 settimane più o meno. Però vale solo per la Val Natisone o valgono adesso, anche altre valli? Io credo che valga dappertutto, perché diciamo queste sostanze sono prodotte da tutte le piante a tutte le latitudini. Dove ci sono i terpeni? Sì, più le latifoglie che le conifere producono questi terpeni. Ecco, si vede perché le conifere hanno già la resina che le difende, credo, non so. Questa è la mia ipotesi, però diciamo credo che sia dappertutto questo, solo che siamo stati noi i primi a misurarli. Adesso ci confronteremo anche con i colleghi giapponesi, perché loro hanno fatto una serie di esami più sugli ormoni e sulle sostanze dello stress del corpo. Noi invece ci siamo più indirizzati a livello respiratorio. Complimenti. Grazie a voi. Grazie. Avevi ancora vedrà che non. No, volevo in realtà una domanda brevissima che ci fa un ascoltatore scrivendoci, dice: questa è la scoperta dell'acqua calda, andare per boschi fa bene alla salute. Però io invece mi sembra molto più preciso quello che sta dicendo lei, giusto? Questo gli ho detto che i colleghi giapponesi si sono accorti che tutti stanno bene in mezzo alla natura, però capire qual era il meccanismo non lo si sapeva. Adesso lo sappiamo. Perfetto, grazie mille. Grazie professor Canciani. Insomma, andate nei boschi, fa bene anche all'ansia. Un rimedio non comodissimo, non praticissimo, ma sicuramente da grandi risultati. Beh, però bello, molto bello. Molto bello. Ci vediamo a Book City, a Book City alle 18 al Museo del Tennis, il libro Crazy for Football di Longanese.